È la proposta denominata ASAP, il cui acronimo vuol dire anche as soon as possible, riguardante la produzione di munizionamento relativa alle forniture appunto di munizioni all'Ucraina negli ultimi mesi. Allora, la prima cosa da dire è che non è un progetto estemporaneo, ma arriva dopo anni di continua militarizzazione dell'Unione Europea, che proprio per la prima volta in questo ciclo di bilancio iniziato nel 2021 ha previsto un fondo europeo per la difesa, che ha previsto questo strumento europeo per la pace, che nonostante il nome invece è quello che ha permesso l'invio di armamenti in Ucraina, ma non solo, anche in Africa per dire, e questa ultima scelta della Commissione decisa a marzo è ancora più preoccupante perché velocizza tutta una serie di produzioni, permette eventualmente la possibilità di spostare fondi del recovery plan, quello che in Italia si chiama PNRR, ma soprattutto tutte queste cose le fa con un percorso decisionale reso più rapido da un voto del Parlamento, che quindi abbasserebbe il controllo, la trasparenza, la possibilità di intervento, e che addirittura prevederebbe per questo tipo di produzioni la sospensione delle normative riguardanti il lavoro e l'ambiente. Cioè non solo si danno i soldi per produrre munizioni, ma lo si potrà fare in luoghi magari ambientalmente problematici, e vediamo invece quanto appunto la questione del territorio sia cruciale proprio in queste ore, e anche derogando da tutti quelli che sono i diritti anche dei lavoratori. Ecco, noi abbiamo pensato che questa cosa fosse ancora peggio rispetto alle decisioni precedenti, ed è per questo che insieme a Libertà e Giustizia e altre organizzazioni della nostra rete abbiamo pensato di fare questa presa di posizione. Si parla di fabbriche di armi che lavorerebbero H24. Sì, e tra l'altro, entrando nel merito di questo specifico progetto, anche un po' scommettendo sulla guerra. Perché? Perché questo progetto ha tre binari, no, li hanno chiamati. Il primo era ridare i soldi agli stati che avevano spedito munizionamento in Ucraina. E va bene, questo può essere, diciamo, noi sapete che siamo contrari all'invio di armamenti per il contesto del conflitto, ma ha un senso logico. Il secondo passaggio è quello di mettere dei soldi per ricostruire o per comunque avere forniture che potessero rifondere, risistemare i magazzini di questi stati. Anche qui inizia a esserci qualche problemino logico, perché negli ultimi anni l'Europa ha speso miliardi e miliardi per gli armamenti. È strano che l'invio di alcune parti di munizionamento per un conflitto come quello in Ucraina, che è a larga scala ma che ovviamente vede il sostegno di tantissimi stati, già voglia dire che i magazzini sono vuoti, e va bene. Ma soprattutto il terzo binario, il terzo passo a essere veramente preoccupante, perché è quello che appunto dà dei fondi per costruire nuovi impianti con la deroga di cui ti diceva prima, con la possibilità di lavorare anche 24 in chissà che località, però con la richiesta da parte dell'industria di garanzie che queste armi verranno comunque comprate e utilizzate. Il che vuol dire che o si sta scommettendo su una guerra che durerà tanto, per cui c'è bisogno davvero di forzare in quella che viene chiamata economia di guerra questo tipo di produzione, oppure stai comunque già ipotecando dei fondi per un'industria delle armi che comunque i suoi affari li farà. Ecco, noi abbiamo voluto sottolineare in questo appello, in questa presa di posizione, anche il pericolo dell'influenza indebita che l'industria bellica può fare su questo tipo di decisioni, e che ha già fatto, perché tutti questi progetti di militarizzazione dell'Europa, quelli che vi ho citato prima, derivano da dei programmi preliminari, da delle bozze che erano state suggerite da un panel di esperti composto per la maggioranza da persone dell'industria bellica. È un po' dire oste come il vino, è buono per forza. In quel caso la domanda era: cosa possiamo fare per migliorare la difesa europea? Poi in realtà loro lo mettono dal punto di vista industriale, no? Perché i trattati impediscono di parlare e di prendere decisioni comunitarie sulla difesa, e la risposta dell'industria militare è stata dare più soldi all'industria militare. Diciamo che non è stupefacente, ma è preoccupante. Va da sé che se si scommette, si investe sulla guerra, di certo non lo si fa sulla pace. Però a proposito di risorse, il nostro paese aumenta in termini di soldi e uomini il proprio impegno anche con la NATO. Sì, in questi giorni è in discussione al Parlamento, in fortissimo ritardo, la deliberazione sulle missioni militari all'estero, che secondo la legge dovrebbe arrivare il 31-12, perché ovviamente riguarda le azioni, le missioni militari internazionali che il nostro paese fa nell'anno successivo. Il fatto che questa cosa arrivi alla fine di maggio e venga discussa al Parlamento a giugno fa arrivare al paradosso che approverà il Parlamento alcune missioni che magari saranno già finite. Ecco, questo è la prima cosa da sottolineare, ed è insensata perché toglie tutte le garanzie di controllo parlamentare, di sovranità parlamentare. Immaginatevi voi, no? Quando sbagliate di un giorno o allungate di un giorno una scadenza su una cosa pubblica, diventa un problema. In questo caso il governo da anni, perché non è solo quest'anno, è mesi in ritardo. riguardo. Quello che abbiamo visto come osservatorio Milex, diciamo analizzando i dati specificamente sulle missioni dedicate al fronte orientale europeo, cioè quelle più coinvolte ovviamente per la NATO rispetto al conflitto in Ucraina, vediamo che aumentano i costi, si passa da poco più di 200 milioni a più di 300 milioni, il numero delle truppe da 2200 a 3400 e anche i mezzi sia terrestri che aerei, più di 600 mezzi terrestri, quasi 30 aerei per queste missioni militari dispiegate sul fronte orientale dell'Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che indipendentemente anche dalla volontà del passato di privilegiare quello che veniva chiamato Mediterraneo allargato, ovviamente il conflitto in Ucraina ha, tra virgolette, costretto anche il nostro Ministero della Difesa a dispiegare più uomini e mezzi in quel contesto, e ovviamente questo vuol dire un coinvolgimento maggiore e può voler dire anche un pericolo di escalation maggiore.